Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Puntata speciale oggi. Giovani Talenti si sposta per il secondo anno consecutivo a Strasburgo, negli studi del Parlamento Europeo, da cui vi stiamo trasmettendo, per un appuntamento che chiude, tra le altre cose, l'iniziativa concorso che abbiamo lanciato a inizio aprile. Ultima puntata dunque per Giovani Talenti in Europa e ultima possibilità per i nostri ascoltatori under 30 di assicurarsi uno dei 6 posti messi a disposizione dalla rappresentanza Milano del Parlamento Europeo per seguire proprio qui a Strasburgo la sessione plenaria di luglio e presentare le proprie proposte ai nostri europarlamentari affinché le traducano in normative europee a favore dei giovani. Restate con noi, tra poco i dettagli su come partecipare. Prima però andiamo a conoscere le storie dei 4 talenti protagonisti della puntata odierna. Tutti sono under 40, tutti hanno scelto l'Europa quale punto di approdo della loro carriera lavorativa. Qualche cifra per cominciare. Secondo dati AIRE riferiti al 2012, che Giovani Talenti ha fornito a inizio aprile, 2.946 20 quarantenni italiani si sono trasferiti in Francia lo scorso anno, 1.012 hanno scelto il Belgio, 369 il Lussemburgo. Parliamo di questi 3 paesi perché sono le nazioni dove si concentrano le istituzioni comunitarie. Né ci stancheremo di ripetere che questi dati sono ampiamente sottostimati. Per avvicinarsi a quelli reali occorre raddoppiarli, se non addirittura triplicarli. E dunque, dopo questa lunga introduzione, è giunto il momento di andare a conoscere i protagonisti di questa puntata europea di Giovani Talenti. Sono Vittoria Venezia, ho 30 anni e vengo dalla provincia di Cosenza. Ho una laurea in relazioni internazionali e diplomatiche e attualmente lavoro come consigliere in commissione affari esteri per il gruppo PP. Io sono Gabriele Bertolli, ho 29 anni, sono nato a Rovereto in Trentino, ho studiato scienze della comunicazione e poi studi europei e ora faccio il consulente in affari europei a Bruxelles. Io sono Eleonora Berti, ho 34 anni, vengo da Firenze, ho una laurea in architettura e un dottorato in progettazione paesistica e adesso sono project coordinator per gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa. Io sono Luca Fossati, ho 35 anni, sono di Genova, ho studiato scienze internazionali diplomatiche e poi ho fatto un master in relazioni internazionali a Milano e attualmente sono consigliere politico in affari economici per il gruppo SND al Parlamento. L'inno europeo per portarci in atmosfera qui a Strasburgo e partiamo a raccontare la storia di Vittoria. Ti sei presentata a Giovani Talenti Radio24.it come una giovane donna di 30 anni che ha vissuto sin da piccola nell'illusione o convinzione di poter fare nella vita grandi cose, perché in fondo siamo noi stessi a plasmare il nostro destino. Non ti chiederò se ci sei riuscita, ma ti chiedo: l'Italia o più in generale l'Europa sono oggi secondo te luoghi dove un giovane può avere grandi ambizioni? Sì, credo che si debbano avere grandi ambizioni a prescindere, perché questo è il motore che ci fa andare avanti anche in mezzo a mille difficoltà, o almeno per me così funziona e questo è il senso della mia frase. Quindi il fatto che in Italia o in Europa possa essere più difficile non deve né scoraggiare né rappresentare un limite alle grandi ambizioni. Gabriella, te chiedo sull'onda della domanda Vittoria: l'Italia è un paese dove conta dove nasci, le tue possibilità sono date anche dalla famiglia di provenienza. Te lo chiedo perché giustamente sottolinei con orgoglio la tua provenienza da una famiglia assolutamente normale. Ma guarda, le possibilità economiche senz'altro contano per pagarsi gli studi universitari, per fare esperienza all'estero, per i corsi di lingua, eccetera. Però secondo me ancora di più contano gli stimoli culturali e di questo devo essere grato alla mia famiglia, perché a casa mia libri, quotidiani, giornali, eccetera, non sono mai mancati, voglia di viaggiare e questo è quello che mi ha spinto alla carriera internazionale. Eleonora, ciò che mi ha colpito in diverse occasioni a livello europeo è l'età. Al di fuori dell'Italia è normale rappresentare la propria organizzazione e avere ruoli di responsabilità anche a 30 anni. Così ci hai scritto a giovanitalenti@radio24.it. E così annoti la classica sensazione di essere troppo giovani o di non avere abbastanza esperienza, tipica di un ventenne in Italia. Svanisce questa sensazione nel momento in cui si viene responsabilizzati a poter proporre attivamente idee e punti di vista. Il nostro, Eleonora, è un problema innanzitutto culturale. Trovo che il problema culturale diventi troppo spesso una giustificazione dietro a cui ci si nasconde. È un problema reale, è un problema strutturale, non ci sono occasioni per i giovani per esprimersi, non ci sono possibilità visto che il turnover è bloccato ovunque e quindi ci si sente in effetti appena si varca la barriera italiana, quindi appena ci si trova nel cuore dell'Europa, più responsabilizzati, ci si sente effettivamente messi alla prova, siamo davvero quello che valiamo in effetti e il merito conta, dunque sì, penso che sia un problema ormai radicato in Italia e strutturale più che culturale. Luca, tu provieni da un background familiare estremamente internazionale, la famiglia di tua madre era di origine tedesca e americana, ma trapiantata in Inghilterra. Quanto è importante avere fin da piccoli un'apertura mentale e una proiezione diversa da quella solamente tipica del proprio paese d'origine? È fondamentale, credo che chiunque di noi possa confermarlo. È l'Europa stessa ad essere cambiata, ad essersi si è aperta, si è integrata, si è ingrandita, noi probabilmente con l'Europa. La nostra generazione, l'altro giorno guardavo Marrakesh Express, il film di Salvatore, per andare da Milano fino al sud della Spagna passavano le frontiere Spagna, Francia, noi questa cosa non ci ricordiamo neanche più. E mi è venuto in mente l'Erasmus, ovviamente, che io ho fatto, probabilmente anche i miei colleghi, dovrebbe secondo me essere per esempio obbligatorio perché è un'esperienza incredibile, ecco. Ripartiamo da Vittoria per il percorso di studi di ciascuno di voi. Vittoria, allora, dalla Calabria ti sposti a Napoli per l'università, nel 2005 ti laurei in relazioni internazionali e diplomatiche. Il tuo personale voto all'università italiana? Il mio giudizio sull'università italiana è comunque positivo. Sicuramente un aspetto negativo che però vale la pena sottolineare è l'eccessiva distanza che c'è tra l'università e il mondo del lavoro, per cui a mio avviso bisognerebbe un attimo riequilibrare questo aspetto per aiutare poi i giovani nella ricerca. Gabriele, tu dopo il liceo linguistico e svariati soggiorni in Europa ti sposti dal Trentino a Bologna per iscriverti a Scienze della Comunicazione, trascorri 6 mesi a Bruxelles in Erasmus, nel 2005 ricominci con un altro biennio di specialistica in Scienze della Comunicazione Pubblica. Pollice su o pollice verso per la nostra preparazione universitaria? Pollice a metà, nel senso che Bologna come università è buona, a livello accademico è buono, le strutture e le possibilità di studiare all'estero sono ottime, però quello che ho studiato in 5 anni oggettivamente l'avrei potuto studiare in 3 anni. Eleonora, tu invece hai compiuto un percorso più specifico, quello in architettura e pianificazione del territorio, studiando a Firenze. Nel 2010 sei divenuta dottore di ricerca in progettazione paesistica. Con te spostiamo il baricentro verso la carriera accademica che hai frequentato a lungo. Ha senso provare a farla oggi in Italia? Ha senso dedicarsi alla propria formazione, quindi utilizzare gli anni dell'università, del dottorato, dei master per formarsi e per acquisire un metodo che poi è indispensabile sia nella vita quotidiana che soprattutto nel lavoro e che credo l'università italiana dia in modo forte, ci si riconosce all'estero fra italiani perché abbiamo un metodo molto efficace. Per quanto riguarda la carriera accademica, pollice verso. Nel senso che non c'è turnover. Ai. Luca, la tua apertura internazionale non poteva che portarti su sentieri accademici dal respiro globale, laurea in scienze internazionali e diplomatica a Genova, condita da 2 Erasmus. Anche a te chiedo una valutazione sul nostro sistema accademico. Ottima teoria, tanta teoria, non tantissima pratica, sicuramente almeno per quello che riguarda l'università. Ho questo ricordo di aule con un 100-120 studenti che si accapigliano per ascoltare i professori. L'esperienza in Spagna, dove ho fatto il primo Erasmus, poi in Estonia dove ho fatto il secondo, è stata completamente diversa. C'era molto più pratica, le aule erano più piccole, corsi più specifici, c'erano tesine in continuazione, si andava alla cattedra a spiegare, a fare domande. Quindi potrebbe migliorare, ecco, sicuramente. Di nuovo con Vittoria per raccontare la fase di transizione di ciascuno di voi dallo studio al lavoro. All'indomani della laurea è iniziata per me la famosa ricerca, racconti, mesi che ricordi ancora, mesi pesanti, interminabili, in cui invii il curriculum ovunque, anche su Marte. Definisci il mondo del lavoro in Italia spietato, ma da come lo descrivi non lo è nel senso della competizione. In che senso è spietato? È spietato perché è essenzialmente un mondo in cui esiste un forte pregiudizio nei confronti dei giovani e delle loro capacità. Leggevo proprio pochi giorni fa dell'ennesimo report sull'età media della classe dirigente italiana e la conclusione è che l'Italia ha sostanzialmente la maglia nera. Per cui credo che questo sia abbastanza significativo rispetto a quello che è il nocciolo del problema. Gabriele, per te il percorso è stato più semplice, anche perché grazie al Master in Studi Europei al College of Europe di Natolina hai potuto trovare uno stage alla Commissione Europea. I tempi per trovare lavoro sono più rapidi se si cerca direttamente in Europa? Ma guarda, il College of Europe è stato importante, però lo stage l'ho dovuto trovare da solo, secondo la procedura ufficiale, che consiglio peraltro che ti sta ascoltando. I tempi sono più rapidi probabilmente, ma soprattutto le condizioni sono migliori. Ricordo che uno stagista alle istituzioni europee prende più o meno 1000 euro al mese, che insomma è più che dignitoso per uno stage. Eleonora, hai mai pensato di dedicarti alla professione di architetto in Italia? C'è qualcosa che ti ha scoraggiato? E poi, perché lasciare l'Italia per te è stato qualcosa che ti ha portato tanta emozione ma anche tanta malinconia? Più che architetto mi sarei voluta dedicare alla ricerca universitaria, quindi continuare dopo il dottorato con la ricerca, ma non c'è una prospettiva. Restare in università è un'utopia. Lo si fa perché siamo appassionati della ricerca, ma probabilmente si pensa che un ricercatore debba vivere con altro. Tanta malinconia e tanta emozione perché finalmente all'estero vengono riconosciute le proprie capacità, tanta malinconia perché questo non viene fatto in Italia. Luca, anche per te la strada dell'espatrio passa attraverso uno stage alla Commissione, dal 2006 al 2010 l'esperienza di lavoro alla Federazione delle Borse Europee, poi in 4 anni hai fatto anche una scalata gerarchica, quando te ne vai sei responsabile del coordinamento degli affari europei di tutte le borse. All'estero, Luca, la carriera è più rapida? Posso dirti che la carriera all'estero è più rapida in generale nel settore privato che in quello pubblico, ecco, questo credo che sia una generalizzazione che possiamo fare. Al contempo è anche meno sicura. La mia esperienza alla Federazione delle Borse mi ha insegnato che un senior manager di una borsa europea ha veramente pochissima pazienza, ve lo garantisco, e per quello che riguarda il settore pubblico, nelle istituzioni dove lavoro adesso, il margine di manovra è un pochino più ampio, ecco. Raccontiamo in breve ora cosa fate, di cosa vi occupate, partendo da Vittoria. Sì, attualmente lavoro per il gruppo PPE al Parlamento Europeo come consigliere all'interno della Commissione Affari Esteri, per cui la mia attività spazia dal lavoro puramente legislativo a quello più strategico quando si tratta di definire la linea politica del gruppo su questioni specifiche. Gabriele? Io sono consulente in affari europei a Strategic Communications a Bruxelles e praticamente ci occupiamo di aiutare grosse aziende, soprattutto americane e inglesi, a rapportarsi con le istituzioni europee tramite monitoraggio delle politiche europee, rapporti con gli eurodeputati, con i funzionari. Eleonora? Io sono Project Coordinator per il programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, un programma che è stato creato in seno al Consiglio d'Europa 26 anni fa. Il più importante itinerario è l'itinerario di Santiago de Compostela. Come Santiago abbiamo altri 25 itinerari che permettono la cooperazione culturale tra paesi del Consiglio d'Europa. Luca? Io faccio un lavoro molto simile a quello di Vittoria, nel senso che sono un consigliere politico per il gruppo dei socialisti democratici al Parlamento Europeo e mi occupo della Commissione Affari Economici e Monetari, quindi c'è un'attività legislativa di lavorare sulle proposte che vengono dalla Commissione e poi accompagnare la legge in tutto il suo iter legislativo. E ora abbiamo la nostra domanda di rito, a rispondere sarà a nome di tutti Eleonora. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? E una proposta concreta da cui ripartire. Cosa c'è che non va? Innanzitutto una disparità tra coloro che sono inflessibili e invece molto flessibili in ambito lavorativo. Un dibattito in Italia pubblico, pieno di sessismo, di omofobia, che non esiste altrove. Un senso civico che è discontinuo, intermittente, un po' schizofrenico. Guardando l'Italia abbiamo l'idea che sia in una continua attesa di un cambiamento che in realtà però non arriva quasi mai. Per quanto riguarda una proposta concreta, senz'altro ricostruire un'idea di un'Europa che sia più vicina a ciò che l'Europa è realmente, perché spesso si sente parlare di Europa ma è un contenitore un po' vuoto. Per quanto riguarda sempre una proposta, investire su ciò su cui invece in genere si va a tagliare, per cui educazione, giovani, cultura, ricerca, e usare i fondi europei, per esempio quelli dedicati al lifelong learning, proprio per riqualificare anche le professioni. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Vittoria Venezia, 30 anni, consigliere alla Commissione Affari Esteri dell'Europarlamento, Gabriele Bertolli, 29, senior consultant, Eleonora Berti, 34, project coordinator al Consiglio d'Europa e Luca Fossati, 35 anni, consigliere politico alla Commissione Economico-Monetaria dell'Europarlamento. Tutti loro sono accomunati da una grande passione europea, da percorsi di alto livello e da uno sguardo, diciamo così, a volte anche un po' scettico sulle opportunità che il nostro paese offre ai propri giovani qualificati e di talento. Riprendiamo la discussione, il filo della discussione con voi in questa seconda parte, partendo dalla questione del rientro. La questione rientro in Italia è delicata. Da un lato mi piacerebbe, ma temo sia una questione legata più al cuore che alla testa, ci scrivevi Luca, giovani talenti, @radio24.it. Eleonora è più dura, definisce l'Italia un paese da sconsigliare ai giovani. Vittoria invoca un cambiamento culturale verso i giovani. Ci potete dare una mano voi? Questa è la mia domanda. Potete voi, giovani professionisti all'estero, indicare la strada a un paese che ha perso un po' la bussola? Potete innescare una rivoluzione culturale che mette al centro l'Europa, il merito, l'innovazione, la fine delle rendite di posizione, l'essere giovani come valori assoluti? Vittoria. Le battaglie si combattono sul campo, quindi credo che sia un po' difficile da giovani all'estero poter innescare una vera e propria rivoluzione culturale nel proprio paese, standone al di fuori, anche se sono sicura che ognuno di noi nel suo piccolo fa ciò che può. È vero, in Italia è necessario un cambiamento culturale verso i giovani e credo che senza questo cambiamento qualsiasi iniziativa concreta sia destinata a fallire. Spero un giorno di poter rientrare e di poter fare la mia parte in tal senso. Gabriele. Ma ci sono quadri che sono più belli se visti da lontano, io l'Italia la vedo un po' così, quindi per adesso non voglio rientrare. Credo che il futuro si giochi sulla base delle risorse che già abbiamo, sulla capacità di fare impresa, sul legame col territorio, sulle donne, la questione femminile è veramente sottovalutata in Italia, e anche sui nuovi italiani. Io credo che la legge sullo ius soli sia una legge di grande civiltà. E Eleonora? Dal mio punto di vista anche sono d'accordo, l'Italia è bella vista dall'estero come paese di vacanza, però per vivere diventa problematico, si diventa italiano scettici dall'estero. Sicuramente una rivoluzione culturale è necessaria farla in Italia e anche sostenerla da fuori. Certo è che le istanze politiche devono essere pronte a recepire questa volontà di cambiamento che nei giovani è forte, sia stando di fuori dell'Italia che stando in Italia. Luca. È dalla cultura che vorrei ripartire. Credo che il sistema Italia sia rimasto veramente immobile per troppo tempo, e la cultura, appunto, secondo me è stata la grande assente. Però nel momento in cui i giovani italiani decidono di impegnarsi, di indignarsi, di dedicarsi al cambiamento, capendo che la rivoluzione culturale siamo noi nel momento in cui lo decidiamo, allora vuol dire che la bussola di cui parlavi prima è stata ritrovata, bisogna solamente seguirla. E questo sta accadendo adesso in Italia, quindi vorrei concludere con una nota vagamente ottimista, se mi è permesso. Ed è qui con noi Roberto Angelilli, vicepresidente dell'Europarlamento, grazie per essere a Giovani Talenti. Onorevole, lei ha sentito i commenti dei nostri ospiti, sono commenti di giovani che amano l'Italia, ma hanno una visione ovviamente anche critica, anche molto critica, costruttivamente critica. Spesso si parla dell'Europa come spazio di mobilità in cui circolare, questo è positivo, ma nel solo 2011 l'immigrazione dall'Italia è cresciuta del 30%, con un più 40% verso la Germania. Non stiamo correndo un rischio enorme come sistema paese, perdendo capitale umano giovane e qualificato senza attrarne di equivalente? Sì, rischiamo di sprecare dei talenti eccellenti, quindi dobbiamo fare qualcosa, sicuramente sono d'accordo, bisogna ripartire proprio da una rivoluzione culturale che rimetta al centro dei destini della nazione, dell'Italia, ma in generale dell'Europa, le giovani generazioni. I giovani devono essere protagonisti, proprio se si vuole guardare al futuro, se si vuole guardare avanti. Ci vogliono però anche degli strumenti, quindi non bastano le belle parole, ci vogliono degli strumenti, delle opportunità, anche delle risorse finanziarie. Da questo punto di vista possiamo cautamente cominciare a sperare bene, perché Parlamento e Commissione si sono messi d'accordo per uno stanziamento di 6 miliardi di euro nella programmazione che parte dal gennaio 2014, l'introduzione in ogni Stato membro della cosiddetta Youth Guarantee, cioè di una garanzia per i giovani, affinché siano offerte ai giovani delle opportunità. Quindi niente privilegi, niente rendite di posizione, ma opportunità sì. A luglio i 6 vincitori dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa saranno qui a Strasburgo a presentare le loro proposte normative a voi, europarlamentari. Quale attenzione troveranno ad accoglierli? Io spero, credo, una massima attenzione, anche perché abbiamo sottolineato il fatto che i giovani devono partecipare, essere protagonisti dei processi decisionali, devono avere lo spazio per poter dire la loro opinione, ma soprattutto anche per suggerire idee, progettualità, proprio per evitare quello spreco di talenti, quella fuga di talenti. Quindi ascoltiamoli, ma soprattutto insieme costruiamo il futuro. È un impegno che vi prendete in vista di luglio. Assolutamente sì. Grazie alla vicepresidente dell'Europarlamento Roberta Angelilli. E ritroviamo anche quest'anno Bruno Marasara, rappresentante a Milano dell'ufficio dell'Europarlamento, con cui anche quest'anno abbiamo riannodato i fili della collaborazione per questa puntata speciale di Giovani Talenti. Bruno, un breve commento sulle 4 storie che abbiamo appena ascoltato. La notizia positiva è che l'Europa è stata per loro un salvagente o una rampa di lancio. Quella negativa è che l'Italia appare un paese ancora un po' poco attrattivo. Come uscirne? Beh, abbiamo ascoltato storie, se posso dire così, con un ossimoro, storie di ordinaria eccellenza, perché le cose che vi hanno raccontato sono tutte belle, dimostrano che con lo studio, con l'impegno si può riuscire a trovare anche collocazioni importanti, e sono storie che ci raccontano anche delle difficoltà del nostro paese, del nostro sistema paese, come è stato detto prima, quindi vanno ascoltate e riascoltate, direi. Bruno, oggi si chiude anche l'iniziativa Giovani Talenti in Europa. Decine le proposte arrivate alla casella concorso Europa @radio24.it, proposte concrete indirizzate da giovani ventenni alle istituzioni europee per programmi di studio, tirocinio e lavoro dedicati a loro. Tu le hai visionate? Che quadro ne è emerso? Beh, un quadro veramente impressionante, cioè i ragazzi, se interpellati, i giovani hanno delle idee straordinarie, alcune sono anche coincidenti con progetti, programmi che il Parlamento europeo vuole portare avanti già da tempo, però il fatto stesso che coincidano queste espressioni spontanee sollecitate dalla vostra trasmissione con le idee che si discutono qui a Strasburgo nel Parlamento europeo è un fatto molto incoraggiante. Io mi auguro, come è stato detto dall'onorevole Ancelilli prima, che queste proposte siano non solo considerate, come sono sicuro sarà fatto, ma che possano poi tradursi anche o inserirsi comunque nei contesti dei nuovi programmi dell'Unione Europea per i giovani. Grazie a Bruno Marasà. E domanda di rito per chiudere a Vittoria Venezia, a nome di tutti e quattro i nostri ospiti: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Gli direi che se Maometto non va alla montagna, è la montagna che va da Maometto, cioè se ciò che si vuole fortemente non arriva, non aspettate, ma andate a prendervelo anche altrove. E come abbiamo detto, si conclude oggi l'iniziativa Giovani Talenti in Europa, ultima possibilità dunque per premiare 6 ascoltatori tra i 18 e i 30 anni che invieranno da ora fino a domani a mezzanotte una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta da sottoporre agli europarlamentari. In premio per le migliori 6 proposte un viaggio a Strasburgo all'inizio di luglio. Attenzione, la proposta, anche se inviata via email, dovrà essere contenuta in 140 caratteri. Il tema della settimana è: inviateci una proposta per un nuovo programma europeo di lavoro a favore dei giovani, programma europeo di lavoro. La email è concorsoeuropa@radio24.it, ricordate di indicare data di nascita, indirizzo e numero di telefono. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info e i contatti e il regolamento su www.radio24.it. Un grazie di cuore a tutti i giovani ascoltatori che in questi ultimi 2 mesi vi hanno preso parte. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Fino a giugno è anche aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è: no ai raccomandati, dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Interactive, la discussione di maggio è: quali devono essere le priorità del nuovo governo e del Presidente della Repubblica sul tema della fuga dei talenti e della circolazione dei talenti? Scrivete la vostra personale lettera aperta alle istituzioni, pubblicheremo le migliori sul blog di Giovani Talenti. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24. Un saluto da Strasburgo e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.